Voci di piccola impresa. Idee anticrisi di Anna Marino. Benvenuti a Voci di piccola impresa, idee anticrisi, dall'idea all'impresa. Questo è il percorso di ogni incubatore, acceleratore, università, venture capital, insomma di ogni qualcosatore. Il nome che si sono dati coloro che compongono il nascente ecosistema che aiuta piccole imprese e start-up. I giovani fanno qualcosa, si dice infatti, ma in realtà non sono solo giovani, ma l'onda lunga dell'innovazione coinvolge tutte le generazioni. E non si tratta solo di start-up, ma di un nuovo mondo finanziario e produttivo. Ci crede davvero ComoNext? www.comonext.it. Segnatevi il sito, il parco scientifico tecnologico che ogni anno ospita il bando incubatore d'impresa promosso dalla Camera di Commercio di Como. www.co.camcom.it è rivolto ad aspiranti, imprenditori e startup. Il bando, appunto, e la relativa modulistica sono proprio su questi siti. Le idee selezionate possono nei mesi successivi accedere all'incubatore d'impresa ComoNext di Lomazzo, un percorso assistito di 3 anni per estendere il business plan, accedere, condividere spazi e risorse, individuare finanziamenti pubblici o privati per lo sviluppo della startup e consulenza, formazione, supporto commerciale, tutto in chi più ne ha più ne metta. Tra le vincitrici dell'edizione 2014 c'è Fluxedo, applicazione per dispositivi mobili, smartphone, orientata al social task management. Che cosa vuol dire? Ci aiuta a organizzare il nostro tempo digitale, perché è multipiattaforma, quindi su dispositivi iOS, Android e Windows Phone, e permette di definire degli obiettivi e condividere attività ai propri contatti telefonici, mail o derivanti dai social network. Anche se pensata per un uso quotidiano su uscite serali, cene con amici, di gruppo e di volontariato, eventi no profit, può anche funzionare per le riunioni e per chi fa cosa nelle attività professionali, collegandoci con i colleghi per pianificare e gestire l'esecuzione dell'attività, ma anche per vedere a che punto si è e che cosa si è già fatto. Un sogno di molte aziende, dai lavoratori ai manager, che magari farebbe risparmiare tempo dedicato al lavoro e trasformarlo in tempo libero. L'idea salvatempo e anticrisi, pensata insieme all'amico Marco Brambilla, ce la spiega il lecchese Andrea Vaccarella. Sono due momenti separati in realtà. Uno in cui mi hanno convinto a entrare a bordo e Marco si è presentato dicendo: guarda, c'è questo progetto, se ti interessa ci manca una figura come la tua. E quando me l'hanno spiegato ho detto: cacchio, volentieri, mi piacerebbe molto partecipare. Quello che mi hanno detto è semplicemente stato un piccolo appetizer dicendomi: guarda, stiamo lavorando come tesi su un sistema per organizzare le cose e far sì che la condivisione, la gestione delle attività condivise diventi più facile. Il termine che abbiamo coniato è un social task manager, perché in realtà siamo una bel po' più potenti di una to-do list, però integriamo un paio di componenti aggiuntive molto interessanti. La prima è proprio quella di poter assegnare le attività da fare ai membri di un gruppo. Se io ho una to-do list, tipo la lista della spesa che devo comprare o la lista delle attività da fare in una determinata giornata lavorativa sul mio cellulare, sono l'unico che la vede, ma soprattutto se riesco a condividerla, nessuno mi può dire sì, ho finito questa attività o no, non l'ho ancora incominciata. Con Fluxedo invece facciamo proprio questo, cioè possiamo dire: il mio gruppo è composto da 5 persone, a te assegno l'attività di prenoto la sala, a te assegno l'attività di aggiorno il documento di bilancio ottobre 2014. Contemporaneamente io, che ho creato per esempio il flusso di lavoro, vedo esattamente a che punto è dell'attività, chi ha svolto il compito, chi è ancora magari al 70%. Ecco, l'idea di Fluxedo è proprio come un flusso, nel senso che però tutto deve essere abbastanza naturale, o no? Da che cosa nasce? Il nome nasce proprio da quello, da flusso, e Ledo sarebbe lui do. Flusso noi facciamo, cioè rendiamo più semplice lo svolgimento naturale di un flusso di attività. Chi è che ha intuito che voi avevate un'idea importante e vi ha aiutato? Allora, noi siamo stati fortunati perché Marco, che è ricercatore del Politecnico, aveva già avuto una esperienza con le start-up all'incubatore ComoNext e sapevamo che c'era in corso un bando organizzato appunto da ComoNext che ci avrebbe garantito un finanziamento da 50.000 euro con determinate modalità. Allora abbiamo provato ad approcciarci, abbiamo creato ovviamente un business plan, l'abbiamo spedito, abbiamo passato le 3 fasi di selezione e per nostra fortuna siamo stati inseriti. Contemporaneamente però abbiamo anche provato il bando di PoliHub, anche questo incubatore politecnico di Milano, e l'idea è piaciuta e siamo stati presi anche da quello. ComoNext però però diciamo che ci è servito molto perché ci ha aiutato anche una volta passata la prima fase di selezione, ci ha aiutato proprio anche a redigere il documento vero e proprio, il business plan, con gli aspetti economici, gli aspetti di marketing, tutta una serie di componenti su cui noi non eravamo ferrati. Ecco, qual è il vostro modello di business? Al giorno d'oggi, quando uno fa applicazioni multimediali per telefonini, per smartphone, di solito si parla del modello freemium, cioè rilascio di un'applicazione con alcune componenti gratuite e poi la possibilità di acquistare componenti e servizi aggiuntivi direttamente dall'interno dell'applicazione, cioè in-app purchase. Nel nostro caso sarà proprio così, cioè la creazione di flussi base sarà assolutamente gratuita e disponibile a tutti. Quando un utente, visto che noi facciamo un passettino in più, cioè integriamo alcuni servizi già esistenti, faccio un esempio, le mappe di Google, avere un flusso che dice sto organizzando una festa tra amici e ci troviamo a casa di Marco, io non so dove è casa di Marco, inserisco la mappa, un servizio aggiuntivo che c'è già, una cosa del genere è gratuita. Se invece una persona richiede un servizio, per esempio una prenotazione, un pagamento online, una prenotazione di un cinema e via dicendo, quello lì è un modulo aggiuntivo che magari costa 99 centesimi però l'ha a disposizione per tutto un anno. Per invece organizzazioni più complesse, come per esempio può essere un'azienda che ha bisogno di integrare, magari ha già un suo sistema di mail interno, magari ha già un calendario interno e vuole integrare Fluxedo con queste due realtà già esistenti, l'azienda può partecipare nella subscription mensile alla integrazione di Fluxedo con questi suoi sistemi, quindi una, diciamo, personalizzazione fatta ad hoc su misura per l'azienda. L'altra scoperta di Como Next è Silk Biomaterials, ancora nella fase di progetto, quelli che in gergo si chiamano SID o seme, punta a sviluppare dispositivi medici nano e microstrutturati in seta per la rigenerazione in vivo di organi e tessuti. Ambizioso, innovativo, frutto di ricerche approfondite, combina le nanotecnologie e le tecnologie tessili avanzate per l'ottenimento di un dispositivo nano microstrutturato, biodegradabile e biocompatibile, realizzato proprio in seta. Spiega la trama dell'idea. Idea che è nata appunto a Como, terra di bachi da seta, Antonio Alessandrino. L'idea di base nasce quando ero poco più che adolescente guardando un documentario in televisione sulla seta di ragno e lì mi è venuto in mente la domanda: ma perché non viene utilizzata per sostituire alcuni pezzi dell'organismo umano, per fare protesi per l'organismo umano come tendini e legamenti, perché avevo avuto appena dei problemi a dei legamenti. Poi nel tempo ho fatto ingegneria dei materiali e negli ultimi due anni ho scelto di specializzarmi in biomateriali. Nell'ultimo esame sostanzialmente sono venuto a conoscenza di qualcuno che stava usando la seta di Baco per realizzare protesi per tendine e legamenti. Allora, lì poi abbiamo fatto diversi progetti di ricerca su vari dispositivi. Questo è durato alcuni anni, poi a un certo punto io sono un po' uscito dal mondo della ricerca, ma ho sempre avuto comunque il chiodo fisso di fare qualche cosa in questo ambito, perché credo nelle potenzialità del materiale e delle tecnologie che nel frattempo avevamo messo a punto. Io poi sono di Como è la patria della seta in Italia, quindi ci tenevo e ci tengo in maniera particolare. È proprio Como? È stato il punto nevralgico per l'aiuto che avete ricevuto. Ecco, quale tipo di aiuto? Chi vi ha dato una mano per fare la svolta e diventare startup impresa? A metà del 2013, Como Next, come parco tecnologico, insieme a TT Advisor, che è una società di investimenti di Milano, hanno finanziato una borsa di studio per farmi frequentare un corso per startup. A quel punto ho appreso tutte le conoscenze per sviluppare business model e business plan. Abbiamo partecipato a dei pitch, nel frattempo grazie a questo corso sono riuscito a mettere insieme un team completo con un consulente senior per la parte tecnico-scientifica e due ragazzi più o meno della mia età che si occupano della parte di management e finanziaria. Fate la squadra, i soldi li stiamo ancora cercando. Diciamo che in questo momento abbiamo vinto un voucher per un'incubazione in Como Next per 3 anni che ci garantisce appunto una sede e dei servizi di base di consulenza. In questo momento siamo riusciti ad attrarre l'attenzione di una società di investimenti di Milano, un piccolo family office, anche di Como Venture, che è il fondo di investimento principale che c'è qua a Como, che è collegato a Como Next. Stiamo cercando un ulteriore terzo investitore di tipo istituzionale un po' più grosso, perché il business plan prevede dei finanziamenti in due round, un primo di qualche centinaia di migliaia di euro e il secondo invece è più consistente, tra 1,5 e 2 milioni di euro. Quindi stiamo cercando qualcuno che sia poi in grado di guidarci anche nel secondo round per diciamo le cifre più grosse. Poi però arriva, dopo il finanziamento, l'aiuto, la prova del mercato. Qual è il vostro modello di business? Il mercato è un po' particolare, non è un mercato come quello delle app per cui il consumatore finale è l'utente che compra, paga e decide lui. È un mercato un po' particolare in quanto l'utente, che è il paziente, non è quello che paga sostanzialmente. Quindi il modello di business in questo momento è rivolto più che altro a vendere poi in licenza il dispositivo e la tecnologia per realizzare il dispositivo ad aziende farmaceutiche o medicali più grosse, che abbiano poi la capacità di distribuirlo, produrlo e distribuirlo sul mercato in grandi numeri. E ora tessete le vostre idee senza perdere tempo. Se volete ascoltare queste o le precedenti storie o scriverci le vostre voci di piccole imprese su Twitter con l'account @vocipmiradio24, su Facebook alla pagina Voci di Piccola Impresa, il blog e il download è su www.radio24.it, grazie alla collaborazione di Anita Panizza. Un saluto da Anna Marino. Avete ascoltato Voci di Piccola Impresa, idee anticrisi. Tutte le puntate sono disponibili sul sito internet www.radio24.it. Un saluto e a sabato prossimo.